A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Un nome da dinosauro e un livello di segretezza che esisteva agli stessi livelli solo in un'altra area della banca, quella per i finanziamenti alle armi. Era dunque in una zona blindata più che mai, stando a quanto ci racconta una gola profonda che avvenivano tutti i passaggi dell'operazione Brontos, ossia il caso che ha portato l'ex numero uno di Unicredit, Alessandro Profumo, ora presidente del Monte dei Paschi di Siena, ed altri 19 manager a processo con l'accusa di aver messo in piedi una maxi frode fiscale da 245 milioni. Uno scandalo partito dalla Gran Bretagna con al centro la Barclays, una vicenda, a detta di chi l'ha vissuta dall'interno, che ha in realtà ben altre dimensioni rispetto a quelle contestate dal PM milanese Alfredo Robledo agli ex vertici di Piazza Cordusio che rivendicano la propria innocenza. Aspetto fiducioso e impaziente, ha commentato Profumo, il giudizio pubblico, certo come sono, della correttezza di ogni mio operato. Il processo a Milano comincerà il 1 ottobre. Intanto A ciascuno il suo è in grado di portarvi all'interno di quegli istituti di credito con una gola profonda che ha vissuto personalmente e direttamente quei giorni e quelle operazioni, che è stata in contatto con gli inquirenti e che anche per questo chiede di restare anonima e con una voce alterata. Innanzitutto, è vero che lei l'ha vista dall'interno l'operazione Brontos? Sì, questa e altre operazioni che avevano lo stesso scopo. E qual era lo scopo di Brontos? Beh, lo scopo era diminuire il tax rate, come veniva chiamato, cioè l'incidenza fiscale italiana sui profitti delle aziende di credito. E quindi un'operazione che faceva gola alle banche, cioè in sostanza per poter beneficiare di un'imposizione fiscale più leggera. Assolutamente, l'hanno conclusa con vari intermediari stranieri il 90% delle banche italiane. Quindi questo vuol dire che se in questo momento c'è un processo per Unicredit, questa vicenda, questo affare, questa operazione coinvolge, le dice, il 90% delle banche italiane? Sì, d'altronde basta guardare le banche che hanno transato con l'Agenzia delle Entrate una volta uscita fuori la vicenda Brontos. Quelle banche che hanno transato hanno fatto sicuramente delle operazioni simili, se non identiche a quella di Brontos. Che era quindi, ricordiamolo, una operazione che per la Procura di Milano nel caso di Unicredit si è trasformata nella contestazione di una maxi frode fiscale da 245 milioni di euro. In sostanza l'accusa è che avrebbero travestito, possiamo dire, gli utili in dividendi per poter beneficiare, come dicevamo, di un'imposizione fiscale più leggera, giusto? Sì, hanno travestito gli utili in costi in realtà. E quindi alla fine veniva fuori un tax rate diverso che veniva restituito alla banca sotto forma di minor costo del funding sui mercati internazionali. Ecco, questo scandalo venne fuori da un punto di vista mediatico nel momento in cui il Guardian, giornale inglese, mise tutto online smascherando quelli che considerava appunto gli artifici della Barclays. In quei casi lì erano citate due banche italiane, Unicredit, che appunto è a processo, e Intesa, che poi in realtà citata e sentita da anche una serie di media italiani, disse: noi non siamo entrati nell'operazione prospettata dal progetto Brontos. Sì, probabilmente non sono entrati nell'operazione prospettata dal progetto Brontos, ma sono entrati in decine di operazioni simili. Questo lo dimostra anche il fatto che poi hanno transato con l'Agenzia delle Entrate. Cioè operazioni che avevano lo stesso scopo. Sì, assolutamente. L'operazione cambiava a seconda di come cambiava la legislazione vigente in Italia o nei paesi con cui veniva fatta, e quindi ogni anno, ogni 6 mesi c'erano operazioni diverse. Brontos è stata quella, diciamo, che è stata più pubblicizzata, anche perché è uscita integralmente sui giornali, ma ce ne sono decine di operazioni così. Molto comune era fare con un sottostante lire turche, che hanno fatto quasi tutte le banche italiane. Cioè operazioni fatte con lire turche. Sì, un'operazione sottostante la lira turca, ma in realtà il rischio non esisteva. L'operazione era strutturata in modo, come tutte, di poter semplicemente abbattere l'imposizione fiscale italiana sui dividendi, sulle revenues delle banche italiane. Ma appunto, se conosciamo Brontos, un nome per di più evocativo, un brontosauro, chissà per quale ragione, lei la sa la ragione? Non ho idea. Lei conosce invece i nomi di altre operazioni analoghi? Ma no, venivano denominate col sottostante, quindi era operazione Lira Turca, operazione sui dividendi lussemburghesi, operazione sui dividendi di Gibilterra, quindi normalmente venivano denominate con il nome del sottostante. Brontos non so perché è stato dato questo nome. E qual era il sottostante più ricorrente? Ha già citato tutti. Beh, Lira Turca e dividendi lussemburghesi, oltre che dividendi su Gibilterra, sì. Quindi Lussemburgo, Turchia e Gibilterra. Sì. Ecco, vista dall'interno, mentre appunto queste operazioni avvenivano, voi che stavate all'interno di queste strutture bancarie, sì, come la vivevate? Come era percepita? Avevate la consapevolezza che si stava svolgendo? Guardi, le legal opinion che venivano rilasciate erano tutte sul filo del rasoio. Quindi l'operazione è per la banca, diciamo, che la proponeva, cioè la banca straniera, aveva una vestizione pseudogiuridica, diciamo, giusta. Tuttavia la riservatezza su queste operazioni, la strutturazione, alcune parti dell'operazione che non erano mai note a tutti quanti, lasciavano presupporre che totalmente coperta da legal opinion queste operazioni non fossero. Cioè che ci fosse, diciamo, che ci fosse un'area scura, che poi era quella che alla fine diciamo era quella che determinava i vantaggi. Dove sta la novità di Brontos? Che in Brontos viene pubblicata non solo la parte italiana, cioè quello che si vede in Italia dell'operazione, ma anche come veniva costruita la parte in Inghilterra, in questo caso in altri paesi, che all'interno della banca conoscevano pochissime persone, ma neanche io la conoscevo. Per cui, siccome la legge italiana dice che l'operazione deve essere fatta esclusivamente ai fini di eludere il fisco, il non conoscere la parte estera permetteva di dire che non era un'operazione per eludere il fisco. Invece quando poi è stata rivelata anche come veniva costruita dall'altra parte, si è capito che l'unico scopo era quello di abbattere le tasse in Italia. Quante persone conoscevano completamente l'operazione? Non più di 3-4 per banca. Quindi molte poche. Sì. E tutto questo, lei ha detto, avveniva anche fisicamente nella massima segretezza. Sì, era l'unica area della banca in cui bisognava avere un doppio pass per entrare, mentre in tutte le altre aree della banca c'era un singolo pass. Per entrare in quell'area c'erano due pass, ci volevano, uno per entrare nella banca e uno per entrare nella specifica area. Una sorta di area appunto doppiamente riservata che quindi non era accessibile a nessun altro. Esattamente. Quindi un badge ad hoc per le operazioni Brontos. Per le operazioni tipo Brontos, sì. E soltanto queste 3-4 persone per banca avevano accesso? Sì, diciamo che c'era un responsabile, un paio di responsabili globali e poi c'era un responsabile per l'Italia e poi degli strutturatori, quindi diciamo 4 persone era il massimo che si poteva supporre sapessero per banca, non più di questo. E sono state mai chieste spiegazioni di tutta questa segretezza? Sì, alcune domande venivano fatte, nel senso che alcune domande come funziona dietro, perché, ma non trovavano risposta. Poi sa, quando si lavora in una banca non è che si fanno molte domande, se è segreto è segreto. Cioè capivate che era un terreno su cui non avventurarsi troppo? Sì, anche perché il responsabile per esempio di Barclays di queste operazioni era Jenkins, che è un banchiere che guadagnava un centinaio di milioni di sterline all'anno e che era un pezzo grossissimo della banca, portando qualcosa come 1,2 miliardi di sterline di revenue ogni anno alla banca. Un personaggio molto grosso su cui, se non ricordo male, c'è qua anche qualche aneddoto. Un personaggio grosso nella City. Molto grosso. Ci sono vari aneddoti. Cioè a un certo punto lui si trasferì da Londra a Miami e veniva a Londra, non so, 2 settimane al mese con l'aereo personale. Cioè un personaggio contro cui è meglio non mettersi nella City di Londra. Ed era lui che gestiva? Lui era il capo della parte Structure Finance di Barclays, era il più grosso strutturatore di queste operazioni a Londra. Quindi attraverso le sue mani passavano anche Brontos e simili? Passavano tutte le operazioni fiscali fatte nel mondo da Barclays, comprese quelle per cui Barclays fu indagata negli Stati Uniti, con cui ci furono alcune contestazioni da parte del fisco americano. Era quindi una persona estremamente influente che in qualche modo, diciamo, lo dichiarava però anche apertamente la sua influenza, una volta lo fece anche con una torta. Sì, diciamo, si racconta, questo però è un racconto più ripetuto, quindi veritiero anche da del personaggio, che si festeggiava il raggiungimento del budget di Barclays e c'era una torta al centro del tavolo dove c'erano tutti i managing director e nessuno aveva il coraggio di prendere la prima fetta. E allora invece davanti a Bob Diamond, che è tuttora l'amministratore delegato, Roger Jenkins prese la prima fetta tagliando la torta e disse: la prendo perché metà di questa torta è mia, indicando che aveva fatto metà di tutti i profitti di tutta la banca. Quindi questo era il personaggio. Dunque è intorno a personaggi potentissimi nella City londinese che avvenivano operazioni come quella Brontos ed altre analoghe, come abbiamo sentito, operazioni che si definivano nelle più segrete stanze della banca. A ciascuno il suo. Un doppio beige per entrare in un'area super riservata. Massima segretezza e una parola d'ordine: meglio non fare troppe domande. In questo clima, intorno al 2007, la Barclays metteva a punto operazioni, o meglio artifici, per dirla con gli inquirenti milanesi, per permettere a controparti di mezzo mondo di eludere le tasse. Questo finché lo scandalo non è esploso sul Guardian ed è diventato in Italia un processo per una maxi frode fiscale presunta per l'ex amministratore delegato di Unicredit, Alessandro Profumo, ed altri 19 manager che rivendicano la loro correttezza. Le principali banche italiane si servivano di operazioni analoghe, non solo Unicredit, dice ad A ciascuno il suo un banchiere che ha vissuto dall'interno quei giorni e che per questo ascolterete con la voce alterata. E personaggi italiani ne ha mai visti? Sì, assolutamente, però diciamo sono persone che al momento mi risultano anche indagate, però hanno dei ruoli diciamo più di, come dire, di contatto col cliente italiano, non hanno dei ruoli veri di comando. Quindi erano gli interfaccia, diciamo? Sì, i venditori possiamo definirli, diciamo, di questa operazione. Secondo lei quindi sono delle operazioni, non tutto è venuto fuori, diciamo? In che senso? Cioè, prima diceva il 90% di banche italiane. No, neanche tutto quello che è stato transato con l'Agenzia delle Entrate. Cioè, se uno prende i comunicati stampa delle transazioni e le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate, e la parte penale è venuta fuori solamente, se non sbaglio, una come penale di queste operazioni. Però prendendo le transazioni con l'Agenzia delle Entrate, diciamo, c'è un filone che potrebbe essere infinito. Perché riguarda moltissime banche. Riguarda senz'altro le prime quattro banche italiane e poi anche altre medie e minori. Che hanno appunto transato con l'Agenzia delle Entrate, ma non ci sono, diciamo, risvolti penali. Al momento no, io non li so valutare. Potrebbero anche non esserci, forse, ci potrebbero essere degli illeciti. Non lo so, se diciamo, non ho letto la motivazione di rinvio a giudizio, però se si ritiene che l'operazione Brontos sia comunque un'operazione che ha degli scopi non leciti, è diverso che altre operazioni che hanno gli stessi scopi non siano poi perseguite. Però questo, ripeto, non sono un esperto giuridico, quindi non posso giudicare. Ma secondo lei che idea si è fatta del perché una anonima gola profonda inglese fece uscire questi sette documenti riservati? Questo bisogna instaurare un clima che secondo me poi ha portato alla crisi finanziaria. Cioè, il clima era quello che una banca poteva fare tutto e poteva calpestare chiunque. Quindi probabilmente ci sarà stata una persona offesa dai comportamenti interni della banca, che è stata allontanata, e siccome la banca si sentiva invincibile, non ha pensato neanche alle conseguenze, perché la persona che ha pubblicato queste carte era una delle persone che comunque erano coinvolte nella strutturazione, quindi molto poche. Questo senso di invincibilità faceva prendere rischi enormi sia sul punto di vista dei mercati sia sul punto di vista anche della riservatezza e anche della sfrontatezza, rispetto al quale si facevano delle cose al limite della legge o addirittura oltre, e però nello stesso tempo si calpestavano le persone all'interno della banca. Quindi è un clima da far west che spero sia cambiato. All'interno di queste banche, all'interno delle banche, ne parlavate, sia pur in modo estremamente riservato, appunto, sì, dei rischi anche di tutte queste operazioni? Sì, c'era una consapevolezza che comunque l'operazione, essendo vantaggiosa per entrambe le controparti, non essendoci piatti gratis in economia, da qualche parte c'era un rischio di illegalità. E a qualcuno, diciamo così, cioè, ma questo rischio, questo margine è stato fatto capire in modo esplicito? Senta che in varie banche ci sia stata gente che abbia sollevato il problema e che sia stata cortesemente allontanata poi dopo. Banche italiane o straniere? Beh, le banche erano sempre le straniere, le italiane non conosco le dinamiche. Quello che so delle banche italiane è che quelle con le quali mi è capitato di parlare, nessuno firmava prima che il consiglio di amministrazione fosse informato. Quindi quasi tutte, almeno nella mia esperienza, ogni volta che si chiudeva un'operazione, i consigli di amministrazione delle banche erano informati di quello che si stava facendo. Anche perché si parla sempre di operazioni che hanno a che fare con molti soldi. Il nominale di questa operazione può essere molto molto grosso, diciamo comunque supera i 100 milioni e si arriva anche al miliardo. Nel caso specifico ad esempio di Unicredit sono stati sequestrati 245 milioni, Profumo appunto non lavora più, non sta più in Unicredit ma al Monte dei Paschi, per cui il Tribunale del Riesame li ha dissequestrati, ma appunto questo è il profitto contestato. Questo è solo il profitto, in realtà il nominale per fare questo profitto è molto più grosso, quindi per fare questo profitto negli anni ci sono stati nominali dell'operazione molto più grossi. E quindi anche per Brontos, diciamo, in qualche modo c'è stato mai qualcuno che ha avuto, diciamo così, una risposta un po' brusca oppure un po' a cui è stato fatto capire che era meglio che non faceva domande? Beh, questo era il clima generale, però nel caso specifico di Brontos non lo so. Successivamente, diciamo nel 2007-2008, ci sono stati dei casi nel quale la gente iniziava a fare domande e gli è stato spiegato che era meglio non farle. Ma non solo in banca, diciamo in tutte le banche di investimento era il clima era questo. E dopo che lo scandalo è scoppiato, lei ha avuto qualche eco di come è stata vissuta? Beh, Jenkins si è dimesso da Barclays, quindi... E quanto è avvenuto, diciamo così, pubblicamente? Sì, è stata smantellata la struttura, anche perché nessuna banca italiana chiuderebbe più un tipo di attività come questa, e quindi il business di fatto è morto, sono state smantellate queste strutture a Londra. Adesso non so se qualcuno pensi di ricrearle, perché poi l'investment banking è un mondo molto ciclico, i prodotti rientrano poi dopo un poco, quindi non so se c'è qualcuno che abbia il fegato di riproporle adesso. Quello che lei racconta sembra quasi combaciare con quello che scrive la Procura quando parla di una struttura complessa ed artificiosa, predeterminata in ogni articolazione. Sì, non ci sono dubbi, era così. La ricostruzione è corretta. Quindi si riconosce, diciamo, in questa... Sì, sì, assolutamente. Spesso si dice che appunto chi racconta le cose che vede è perché ha dei risentimenti nei confronti del posto in cui ha lavorato. Ma guardi, è una notazione storica, perché alla fine diciamo questo mondo è esploso. In vari settori ne stiamo pagando le conseguenze. La situazione è stata messa alla luce dalla Procura. È bene che la gente sappia per non ripetere gli stessi errori. Abbiamo partecipato tutti di questo mondo, è un mondo che sta finendo, però non deve tornare, perché i rischi sono enormi, sia per le persone coinvolte a volte inconsapevolmente, sia per il sistema in se stesso. Il doppio badge di cui mi parlava prima aveva qualcosa di particolare? C'era scritto qualcosa? Dunque, la struttura che si occupava di questo, no? Certamente non si chiamava tax, ma si chiamava structure finance. Quindi no, non aveva niente di particolare. La parola structure finance vuol dire tutto e niente, cioè finanza strutturata, non vuol dire niente. E quindi era un badge ad hoc su cui era scritto finanza strutturata? Sì. Beh, non era, sa, alle volte si usano i codici, quindi non necessariamente il badge per entrare in banca era finanza strutturata, poi il codice per entrare nella parte era riservato a coloro che ci lavoravano. E questo però non c'erano stati precedenti analoghi, cioè di zone con ingresso soltanto? Guardi, io che io ricordi c'è un'altra zona che è quella che finanzia gli armamenti, che si chiama STEF, che è chiusa per ovvi motivi di sicurezza, perché lì vengono finanziati gli acquisti di armi da parte di paesi o altre operazioni simili. Quindi quella è un'altra zona sulla quale non si può entrare, però quella, diciamo, è risaputo quello che fa. Ecco. Quindi stessa segretezza per la zona in cui ci sono i finanziamenti per gli armamenti e quella in cui c'erano i finanziamenti per queste operazioni bancarie. Sì. A ciascuno il suo, termina qui. Per riascoltare e scaricare questa, come tutte le altre puntate, ci trovate sul sito radio24.it nella sezione podcast, oppure siamo sulla pagina Facebook di Storiacce, sul blog Storiacce, e su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a sabato prossimo.